l'anno che verrà. Nel 1982 un film di fantascienza di grandissimo successo diretto da Ridley Scott, ambientato nel 2019, ci raccontava di un mondo che però non si è avverato. Benvenuti, questo è L'anno che verrà, un programma di Radio 24 pensato per raccontarvi quello che succederà nei prossimi mesi. In questo 2019, come sempre, dobbiamo abituarci a parlare del nuovo anno. Annarita D'Ambrosio qui a fianco a me, benvenuta Annarita. Grazie Enrico. Beh, insomma, già che non ci ritroviamo nell'ambientazione di Blade Runner, mi sembra positivo, dai. Sì, hanno sbagliato quasi tutto, perché è troppo, forse hanno sbagliato di un centinaio di anni. Pensa che il romanzo da cui è tratto è del 68, alla mia età, quindi insomma aveva guardato molto in avanti 50 anni prima, però per fortuna. Blade Runner, ambientato in una Los Angeles dove ci sono dei replicanti che venivano prodotti in serie, non siamo arrivati ancora a questo punto. Questa è una notizia positiva per questo 2019. Questa è positiva e la giriamo anche a chi ne sa sicuramente più di noi, non solo di Blade Runner, la nostra Marta Cagnola. Marta, ciao. Ciao, sì, era un 2019 un po' tragico quello che dipingeva Blade Runner. Allora, non che il nostro 2019 sia roseo, però non siamo ancora stati costretti a lasciare la Terra, come succedeva in Blade Runner. Una Terra messa talmente male che erano state fondate delle colonie extramondo e dunque già chi poteva lasciare la Terra se ne andava. E poi queste colonie extramondo abitate da schiavi, perfetti replicanti degli umani, che a un certo punto però anche gli schiavi nel loro piccolo, diciamo, s'arrabbiano, per non usare la citazione corretta, e bisogna fare qualcosa contro questi schiavi che vanno riportati all'ordine. Però allora, un mondo inquinatissimo, in cui piove sempre, in cui non c'è più vegetazione, in cui non ci sono più animali, possiamo consolarci a questo punto del 2019, vero? Sì, la buona notizia è appunto che non ci hanno proprio azzeccato, tant'è che ci hanno riprovato, hanno fatto Blade Runner 2049. Speriamo, sì, hanno portato avanti di 30 anni, ecco, hanno portato avanti la previsione di 30 anni. Sempre un brutto posto la Terra, eh? Sì, prima o poi si avvererà questa cosa, no? Ma speriamo di no, speriamo di no. Vabbè, o quantomeno comunque di non esserci, dai, vediamola così. Sì, la sensazione adesso, non so agli ascoltatori che cosa ne pensano, però è abbastanza strana, perché quando si guardavano questi film si pensava, chissà, nel 2019, pensate anche quando abbiamo visto le prime volte 2001 Odissea nello spazio, anche in quel caso completamente, non tanto sbagliato, ma troppo precoce la previsione, perché probabilmente arriveremo, che ne so, fra 30, 20, 30, 40 anni a queste astronavi dove vivremo, ma non ci siamo ancora. Enrico, io poi ti farò delle domande, perché voglio anche capire poi da un punto di vista tecnologico, sul quale tu sicuramente sei in grado di fornirmi delle risposte, che cosa di particolare ci riserva questo 2019. A Marta però voglio chiedere, da un punto di vista cinematografico, che cosa ci riserva. Allora, ovviamente le uscite sono tantissime, è impossibile andarle a vedere una per una. Allora, mi sono basata sulla classifica di IMDb, cioè Internet Movie Database, o IMDb come la chiamano gli americani. Viene definita scherzosamente la Bibbia del cinema, perché in realtà è il sito sul quale si trovano tutte le trame, tutti gli attori, tutti gli autori, si trova tutto. Allora, hanno fatto questa sorta di classifica dei film più attesi, basandosi sulle visualizzazioni delle pagine da parte degli utenti. Quindi quanto più gli utenti hanno cercato un film, tanto più questo film è atteso. È abbastanza matematico, dunque. Allora, secondo me i gusti degli utenti di IMDb possono avvicinarsi a quelli di Enrico Pagliarini, perché in cima alla vetta c'è Captain Marvel, che batte Avengers Endgame, che è al secondo posto. Risultato però che sorprende, visto che il trailer del quarto capitolo della saga di Avengers ha infranto il record di visualizzazioni su YouTube, raggiungendo le 289 milioni di views nelle prime 24 ore. Quindi insomma è tutta una questione di fantascienza, di supereroi, perché al terzo posto nel podio c'è Dark Phoenix, il nuovo capitolo della saga di X-Men, che è poi diretto da Simon Kingberg. E in regia Andrea Roccabella dimostra di gradire. Ecco, stai parlando di film che a me non, diciamo, non stuzzicano interesse, però vedo che in entrambi entrambi i miei uomini in questo momento c'è. Adesso abbiamo una pausa. Hanno già comprato i biglietti. Sì, adesso visto che abbiamo una pausa, diamo tempo a Marta di trovare nella classifica magari un film che può piacere anche a te, può piacere a molti nostri ascoltatori, e tra poco sentiremo anche Gabriele Niola, che è collegato con noi, critico cinematografico che i nostri ascoltatori avranno ascoltato assieme a Marta al sabato pomeriggio. Breve pausa, riprendiamo tra poco con L'anno che verrà. L'anno che verrà. Ancora la musica di Vangelis, ben ritrovati da Anna-Rita D'Ambrosio e da Enrico Pagliarini. Nell'anno che verrà, noi siamo già proiettati nel 2019, dove, nel quale è ambientato proprio Blade Runner. Abbiamo parlato questo mondo di replicanti che per fortuna non abbiamo visto. Abbiamo due ospiti, la nostra Marta Cagnola, a cui si aggiunge, e lo ringraziamo, il critico cinematografico di Bad Taste e Wired, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao. Gabriele, che film ci segnali per questo 2019? Parlando di film tecnologici, due sono italiani, che è una cosa che penso non capitasse da, ma non lo so, dagli anni 40 probabilmente. Allora, il primo è Freaks Out, è il nuovo film di Gabriele Mainetti, che è l'autore di Lo chiamavano Gig Robot. È fatto con il medesimo team creativo di Lo chiamavano Gig Robot, cioè gli stessi sceneggiatori, la stessa produzione che è sempre sua, e c'è anche Claudio Santamaria, anche se attenzione pare proprio che non sia il protagonista, sia accanto al protagonista. Ed è la storia di un gruppo di freak, cioè no, quelle persone che nel circo fanno gli strani, l'uomo barbuto, la donna cannone, questo tipo di persone qua, che nell'Italia della seconda guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale, sono a piede libero perché il loro circo è saltato in aria e il loro padrone non c'è più e non sanno che fare, sono per la prima volta liberi in un luogo in guerra e ci sono di mezzo questioni di fantastico, di poteri, di cose. Il secondo, sempre da quei italiani, è Il primo re, esce il 31 gennaio, per questo abbiamo già la data di uscita, per l'altro no, ed è un film su Romolo e Remo che, detto così, non sembra interessantissimo. Però, se ci aggiungete che è di Matteo Rovere, che è l'autore di Veloce come il vento, il film di corse con accorsi che era molto bello, se ci aggiungete che è tutto parlato in latino proto-arcaico, anche se, così ancora non l'ho visto il film, però dicono gli autori, non è che poi sia così tanto parlato. Se ci aggiungete che è ispirato a Revenant, il film con DiCaprio, quindi è un film di ambienti duri, di violenza, di corpi, di cose, insomma diventa molto molto interessante, è già uscito un trailer e io non vedo l'ora di vederlo. Marta, c'è un film, due, non più di due, da segnalare invece per le signore che magari non amano tantissimo il genere tecnologico? Vabbè, intanto al primo re, anche se non amiamo il genere tecnologico, amiamo il protagonista che è Alessandro Borghi. Però io sono molto curiosa di conoscere cosa sarà il Pinocchio di Matteo Garrone, che sta iniziando a girare questo film. Si sa semplicemente che ci sarà Roberto Benigni, che ovviamente non farà più Pinocchio, ma sarà Geppetto. Poi c'è un nuovo Gabriele Muccino con I migliori anni. Totale riservo, si sa che ci sarà Micaela Ramazzotti, Pier Francesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stewart o non so, perché insomma questi sono i nomi che sono circolati. E poi ad Annarita segnalo che il 14 febbraio uscirà La paranza dei bambini, ispirato al lavoro di Roberto Saviano. Di Roberto Saviano, per la mia Napoli, diciamo, anche questa Napoli violentissima. Sì. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica. Samuele Bersani con Lo scrutatore non votante ad introdurci in un altro dei temi di questo 2019, Enrico, un tema importante, le elezioni e le urne che ci aspettano a maggio per le europee, e voteremo, e questa è la prima domanda che voglio farti, ancora con l'urna, cioè noi andiamo lì e mettiamo la nostra scheda nell'urna, ma tecnologicamente Siamo fermi lì? Da tantissimi anni si discute del voto elettronico. Ci sono due versioni di voto elettronico: quello online, quindi a distanza, a casa tua, in giro con lo smartphone, oppure il voto elettronico nel luogo tradizionale, cioè nel seggio, con macchine che assomigliano a bancomat. Negli Stati Uniti sono molto utilizzate, con risultati disastrosi. Il problema fondamentale, questo lo dicono tutti gli esperti in tutto il mondo, tutti gli esperti di tecnologia e soprattutto tutti gli esperti di cybercrime, di sicurezza informatica, e dicono e sostengono che con le tecnologie attuali i rischi di attacco informatico, quindi di sovversione del voto, cioè di cambiamento proprio del voto, di sabotaggio del voto, sono altissimi. Negli Stati Uniti ci sono stati dei casi anche dimostrati di sabotaggio del voto, e tutti gli anni ad agosto viene organizzata una conferenza, cioè una conferenza famosa a Las Vegas sul cybercrime, sulla cybersecurity, e molti esperti portano di queste macchine, proprio di queste macchine, e fanno una gara a chi le riesce a sabotare per primo. Ah, beh. E tutti gli anni queste macchine vengono hackerate. Quindi il tema è... Quindi teniamoci le urne. Teniamocela, perché visto che l'interesse maggiore a sabotare il voto ce lo hanno nazioni straniere, pensate alla Russia, alla Cina, ma anche altri stati, ci vogliono poche decine di milioni, che per una nazione sono pochi soldi, per essere sicuri di riuscire ad hackerare un sistema del genere. Quindi il rischio è talmente alto, per cui meglio votiamo. Anche perché ci sono dei problemi di segretezza, perché uno dice facciamo girare i soldi e figuriamoci se non possiamo fare il voto, però c'è un problema: i soldi non sono segreti, perché la banca sa che quanti soldi tu hai, tu che ricevi il pagamento, certo, sai quanti soldi. Ecco, nel voto ci sono dei problemi di segretezza che complicano un po' le cose, quindi meglio ci teniamo meglio per il che momento, continuiamo a votare come abbiamo votato fino ad adesso. Elezioni importanti in Italia, elezioni importanti all'estero. E allora ringrazio e saluto i nostri ospiti, Elisabetta Fiorito e Sergio Nava. Allora, Elisabetta Fiorito, elezioni importanti, ci arriviamo con un governo nuovo, con un governo che polemizza abbastanza, dove c'è una bella dialettica, diciamo così, e dove queste elezioni sono importanti per la tenuta non poco, vero? Beh, sicuro. Intanto diciamo che il governo giallo-verde alleato in Italia non è alleato in Europa, perché noi sappiamo che tutte e due le componenti della maggioranza, cioè Lega e Movimento 5 Stelle, hanno già dichiarato che faranno una campagna a sé stante, ognuno nel gruppo che decideranno poi frequentare, perché tra le altre cose al quale decideranno di appartenere. Noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle è degli aeroscettici dell'FDD, che era anche con Farage, voleva passare all'ALDE, non è riuscito, mentre la Lega è con Marine Le Pen al gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà. Quindi sono già in due eurogruppi distinti e concorreranno quindi per questi due eurogruppi uno contro l'altro. Poi c'è il problema all'interno del centrodestra, Narita. E che cosa succederà? Questo non si sa. Anche qui sia la Lega sia Forza Italia sono sempre stati in due gruppi europei diversi, perché Forza Italia è nei popolari, quindi ci sarà una campagna elettorale tutti contro tutti. Gli unici che andranno nel gruppo destinato poi alla fine sono Forza Italia, appunto, con i popolari, e il Partito Democratico con i socialisti. Il resto la battaglia è aperta. Elisabetta, per il Partito Democratico è un'elezione importante, perché insomma dopo i risultati deludenti delle ultime tornate elettorali, insomma, si dovrà tentare il tutto per tutto. Certo, oltretutto verrà subito dopo il congresso, sappiamo che ci sono due candidati, Zingaretti, che rappresenta poi la sinistra, no? Recentemente anche detto che voleva ritirare dentro D'Alema, e poi abbiamo Martina, che rappresenta invece un po' il fronte più riformista, più renziano. Anche per Forza Italia bisogna capire qual è la tenuta, no? Abbiamo Tajani, che è presidente del Parlamento Europeo, che tra poco ascolteremo. Bisogna capire che cosa succederà. Altra faccenda abbastanza interessante è capire quanto poi Matteo Salvini vuole tenere in vita il governo giallo-verde, perché molti dicono che potrebbe staccare la spina prima, oppure alcuni dicono che potrebbe staccare la spina dopo. Loro chiaramente smentiscono sia Lega che Movimento 5 Stelle, e dicono che andranno avanti per tutta la durata della legislatura. Ovviamente sto parlando della legislatura in Italia, non a Bruxelles. Certo. Grazie Elisabetta. Allora, ci hai fatto il quadro della situazione. Sì, ci ha dato anche alcuni elementi di incertezza, visto che poi la parola incertezza la utilizzeremo. Insomma, sì, anche sarà in abbastanza occasioni. Dominante purtroppo in questo 2019. Sergio Nava, l'assalto dei sovranisti anti-europeisti, quanto preoccupa invece non in Italia ma negli altri paesi europei dove si vota? Diciamo che al momento, guardando anche i sondaggi che ci sono, che circolano, chiaramente sono molto difficili perché parliamo di 27 paesi, la Gran Bretagna l'abbiamo già tolta, dovrebbe uscire a marzo, però di 27 paesi è difficile fare sondaggi, come dire, accurati, però gli ultimi sondaggi fanno supporre che i sovranisti e i populisti incarnati soprattutto nelle due famiglie che ha citato prima Elisabetta, cioè l'Europa delle Nazioni, l'Europa delle Democrazie, più del 16-17% non andrebbero a prendere, 18%, quindi un voto su 5 scarso. Dovrebbero alla fine prevalere ancora le grandi famiglie tradizionali, cioè i popolari, i socialisti democratici e i liberali fondamentalmente. Ci sarà un aumento di sovranisti, populisti, più in generale definiamo gli euroscettici, però che a maggio e poi chiaramente con la proiezione che ci sarà della nuova Commissione europea in autunno, l'Europa sarà governata dagli euroscettici o dagli antieuropeisti, insomma da lì ce ne passa abbastanza. Sarà comunque un anno molto complicato perché, l'ho citata prima, ci sarà una Brexit in teoria a fine marzo, ci sarà un voto di Westminster a gennaio abbastanza decisivo su questo e dovremo capire se la Brexit ci sarà e che tipo di Brexit ci sarà. E oltre alle elezioni europee c'è anche una questione di ricambio fortissimo nel 2019 delle principali cariche comunitarie, perché cambierà non solo il Parlamento europeo e quindi anche il suo presidente, ma cambierà anche tutta la Commissione europea in autunno e cambierà anche il presidente della BCE, che non sarà più Draghi a partire da fine 2019. Quindi un vortice di poltrone veramente incredibile che cambierà i connotati dell'Europa. Adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa, questa è L'anno che verrà, una trasmissione che vuole darvi alcuni spunti di riflessione sui prossimi mesi fino al prossimo dicembre. Ci risentiamo tra poco. L'anno che verrà. Ben ritrovati da Anna Rita D'Ambrosio e da Enrico Pagliarini. Vi stiamo portando nell'anno 2019, nei principali avvenimenti di quest'anno, e stiamo parlando di politica perché è un anno elettorale importante. Ci sono le elezioni europee e non solo, ma le elezioni di maggio sono una svolta importante in Italia e in tutta Europa. E poi c'è la Brexit. Di questi due temi, delle elezioni europee, di questo anno elettorale vivace, così lo chiama, ha parlato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani con il nostro Sergio Nava. Sentiamo. L'anno elettorale sarà un anno vivace, ma già possiamo dire che l'assalto non ha alcuna possibilità di raggiungere l'obiettivo, perché il Parlamento europeo avrà una maggioranza ampia di forze favorevoli all'Europa e non forze distruttive, e alla Commissione europea lo stesso, ci sono due o tre commissari, espressione di paesi che credono nel sovranismo, fanno politiche sovraniste. Detto questo, l'Europa così com'è non va, bisogna cambiare, la prima cosa da fare è il ritorno alla politica. Ecco perché io chiedo che il Parlamento europeo abbia più potere. Siamo l'unico Parlamento al mondo che non ha il potere di iniziativa legislativa, noi dobbiamo farlo, perché è giusto che i cittadini europei siano rappresentati da parlamentari che possano avviare dei processi legislativi senza dover aspettare le proposte della Commissione europea. Se dovesse puntare un euro su come dovesse andare a finire la Brexit, dove lo punterebbe? Su quale soluzione? Su quale esito? Io voglio puntarla perché sono ottimista, non solo perché sono italiano, sono una soluzione positiva. Quindi lei si augura che alla fine la Gran Bretagna possa rimanere in Europa? Mi auguro che quantomeno ci sia un'uscita soft. Se poi i britannici vogliono rimanere in Europa, siamo ancora più contenti. E questa era la voce del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Sergio, questa della Brexit sì, Brexit no, Brexit forse, ha ancora tutte le opzioni aperte, cioè la possibilità che la Gran Bretagna rimanga nell'Unione Europea, ancora una opzione, tu punteresti un euro o addirittura una sterlina su questo? Diciamo che se ci fosse un hard Brexit, cioè un'uscita della Gran Bretagna senza accordo, non punterei una sterlina, perché avrebbe una svalutazione tale che forse sarebbe sul momento abbastanza pericoloso utilizzare delle sterline. Però scherzi a parte, tutte le opzioni sono teoricamente aperte. L'anno si è chiuso, il 2018 si è chiuso con i preparativi per una hard Brexit, perché chiaramente la situazione è talmente confusa e talmente in bilico che sia Londra sia l'Europa poco prima di Natale hanno fatto delle riunioni a livello ministeriale a Londra, a livello di Commissione Europea in Europa, per predisporre dei piani proprio relativi a un'uscita senza accordo. Poi quello che accadrà a gennaio è che ci sarà finalmente il voto del Parlamento britannico, rinviato praticamente di un mese da una Theresa May assolutamente indebolita, e sulla base di quanto accadrà a Westminster a quel punto si capirà qualcosa. Se dovesse bocciare l'accordo, a quel punto si aprirebbe l'ipotesi di un hard Brexit, però non dimentichiamo che la bocciatura da parte di Westminster potrebbe far cadere il governo, potrebbe portare a un secondo referendum, oppure alla richiesta da parte di Londra di prorogare la scadenza per l'uscita, cioè spostarla da marzo più avanti, oppure ancora, come ha stabilito anche la Corte Europea di Giustizia a dicembre, revocare addirittura l'uscita, perché Londra può revocare la Brexit da sola e a quel punto avremmo scherzato praticamente per gli ultimi 3 anni. Sergio, grazie per questo breve riepilogo e anche a te un buon anno. Buon anno anche a voi. Le elezioni europee, la Brexit, appuntamenti politici molto importanti, non sono gli unici però, Enrico, di questo 2019. Si voterà anche in Libia e sappiamo quanto è importante in tema immigrazione per il nostro paese questo voto, soprattutto dopo la conferenza che si è svolta proprio in Italia a Palermo, dedicata alla Libia e al futuro politico della Libia. Si vota anche in Ucraina. Allora noi ringraziamo Laura Bettini che ha realizzato per noi 2 interviste. Partiamo parlando di Libia ascoltando Arturo Varvelli, che coordina il programma Nord Africa dell'ISPI. Uno spiraglio si è aperto perché la conferenza di Palermo ha avuto il merito di stabilire quali saranno i passaggi istituzionali più chiaramente. Tra gennaio e febbraio del nuovo anno dovrà tenersi un congresso, una conferenza nazionale, e poi in primavera, si dice nel comunicato finale di Palermo, dovrebbero cominciare a tenersi un ciclo di elezioni, prima quelle locali, poi quelle parlamentari e poi diciamo quelle presidenziali. Quale ruolo può giocare l'Egitto in questo contesto? Ma l'Egitto ha un ruolo importante sulla crisi libica, perché è uno dei maggiori supporter dell'azione del generale Haftar. Molti attori internazionali, dalla Russia agli Emirati Arabi e anche la Francia, si sono un po' allineati, quindi Haftar è realmente la figura emergente del 2019 sulla Libia. Relativamente all'Egitto sappiamo che al-Sisi, che è reputato molto forte, ha certamente dei problemi interni, continuerà il tentativo di rafforzare il proprio potere all'interno, e io penso che le nuove scoperte energetiche nel Mediterraneo occidentale e in particolare quelle fatte dall'ENI potranno contribuire alla possibilità di rafforzamento da parte di Al-Sisi in chiave interna, perché potrebbe disporre di nuove risorse da in qualche maniera distribuire alla popolazione. Altro voto decisivo, come detto, quello dell'Ucraina. Sempre al microfono della nostra Laura Bettini, Aldo Ferrari, Osservatorio Russia e Caucaso, sempre dell'ISPI. Che cosa ci si può aspettare dal voto ucraino? Può aspettare innanzitutto una sorta di giudizio che il popolo ucraino darà sul presidente uscente Poroshenko, su come ha governato. I successi che questa presidenza si può attribuire non sono tanti, la situazione economica è pessima e peggiorata rispetto al pre-Maidan, i rapporti con la Russia sono pessimi, la Crimea presumibilmente è persa per sempre, anche se la comunità internazionale non lo può, non lo vuole riconoscere, il Donbass è perduto, non c'è molto di positivo che il popolo ucraino possa attribuire al presidente Poroshenko. È molto probabile che il presidente non venga riconfermato e che quindi l'Ucraina debba scegliersi una nuova guida per i prossimi anni in una situazione che che rimane comunque molto molto difficile, sia politicamente ma soprattutto economicamente. Senta, tra i candidati alla presidenza c'è anche Yulia Tymoshenko, quindi non certo il nuovo che avanza, però la condizione è diversa, i rapporti con la Russia ormai sono totalmente diversi. Beh sì, la Russia è riuscita nell'impresa di allontanare da sé, forse per sempre, un paese storicamente vicino, fratello, legato da fortissimi vincoli storico-culturali e anche familiari. È probabile che quello che è successo anni fa abbia messo veramente, abbia determinato davvero, forse definitivamente, la costituzione di un'Ucraina pienamente indipendente. La Russia esce sconfitta, al di là delle possibili apparenze, da queste vicende, però resta da costruire la vivibilità di un'Ucraina indipendente. Al momento il paese non è autosufficiente e purtroppo quello che è avvenuto anni fa ha peggiorato non solo i rapporti fra i due paesi, ma anche la situazione interna dell'Ucraina e anche evidentemente i rapporti a livello più generale tra la Russia e l'Occidente. Prima abbiamo parlato, Enrico, delle elezioni che ci aspettano in questo 2019. Un 2019 che sarà molto importante sotto osservazione, soprattutto dal punto di vista economico, e lo è stato tanto anche nel finale del 2018. Sì, anche se le cose stanno, sono già cambiate, ma stanno cambiando decisamente in maniera molto netta, e molti dicono, molti economisti, molti esperti di finanza internazionale, che ci stiamo indirizzando verso mesi di assoluta incertezza. Quasi tutti gli inizi dell'anno hanno un pizzico di incertezza, ovviamente, però ci sono vari elementi che ci fanno sottolineare ed evidenziare questa parola. Salutiamo, lo ringraziamo per essere venuto nei nostri studi, Moria Longo, che è uno degli esperti dell'incertezza del 2019 del Sole 24 Ore. Sono laureato in incertezza. Si occupa di finanza al Sole 24 Ore. Moria, perché ci sono così tanti indicatori che ci suggeriscono di utilizzare questa parola? Allora, negli ultimi 10 anni, sì, dalla crisi del 2008 in poi, il mondo è stato sorretto, diciamo, da 3 pilastri. Il primo, le politiche monetarie, il mondo economico intendo, sì, le politiche monetarie. Le banche centrali a livello mondiale hanno tagliato i tassi di interesse oltre 700 volte e hanno iniettato, solo le principali banche centrali hanno iniettato liquidità sui mercati, quindi poi, sperando che andasse anche nell'economia reale, hanno iniettato 12.000 miliardi di dollari. Pazzesco. Questo è stato un pilastro dell'economia e soprattutto dei mercati finanziari. Il secondo pilastro, può sembrare strano, è stata la politica. La politica, dopo la crisi di Lehman Brothers, è subito intervenuta per sostenere le banche, hanno speso miliardi, migliaia di miliardi in Europa, in America, un po' in tutti i paesi, molto meno in Italia, per sostenere non soltanto il sistema bancario, che è il fulcro del sistema economico, ma poi anche cercare di aiutare l'economia. In molte parti del mondo, in Europa un po' meno, però è stato fatto. La terza cosa che ha aiutato il mondo, soprattutto i mercati finanziari ultimamente, è stata la crescita economica. C'era una crescita economica, una propulsione economica a livello globale, soprattutto nel 2017 è stata fortissima. Il 2017 è stato un anno record per crescita economica sincronizzata nel mondo, cioè praticamente tutti i paesi del mondo hanno avuto, chi più chi meno, crescita economica. Ebbene, questi 3 pilastri già nel 2018, ma soprattutto nel 2019, vengono meno, comunque vengono molto incrinati. Pensate alle banche centrali, da che stampavano denaro, adesso lo ritirano. Nel 2019 ci sarà drenaggio di liquidità. La Federal Reserve, la banca centrale americana, lo sta già facendo, sta riducendo il suo bilancio, ma a livello mondiale si stima che l'anno prossimo, per la prima volta da quasi un decennio, ci sarà riduzione di liquidità. Quindi è un cambio epocale. Un decennio, sì, sono tanti. Dopo tanti anni, tra l'altro, straordinari e singolari nella storia dell'economia. Assolutamente senza precedenti. Sì, senza precedenti. Cioè, politiche monetarie così espansive e così sincronizzate nel mondo non si erano mai viste. Secondo punto, la politica, da che era un elemento, è stato per anni un elemento di sostegno, adesso è diventato un elemento di totale incertezza. Non pensiamo solo alla situazione italiana, pensiamo a Brexit, non si sa ancora, marzo è tra poco e non si sa come andrà a finire. Pensate ai gilet gialli in Francia, pensate ai tweet di Trump, alla guerra commerciale, se di guerra si può parlare, tra la Cina e gli Stati Uniti. Quella non è soltanto una guerra commerciale, è una guerra tra due superpotenze, le due vere superpotenze del mondo di oggi. Quindi crea una grande incertezza su come questa battaglia, se di battaglia si può parlare, una battaglia molto sottile, che è fatta non solo di dazi commerciali, ma anche di proprietà intellettuale, di tecnologia e di tutta una serie di cose, come andrà a finire. Questo è un altro grande elemento di incertezza. Ma pensate anche alle elezioni europee a maggio, cioè dove il cosiddetto populismo potrebbe avere la meglio. Ne abbiamo parlato. Sì, sì, ne abbiamo parlato. E quindi poco fa, tutti questi elementi rendono di fatto impossibile prevedere il futuro, perché può capitare oggettivamente di tutto e contrario di tutto. La cosa curiosa è che se si vanno a prendere le previsioni economiche sul 2019, che tutte le banche d'affari, tutti gli istituti di ricerca internazionali fanno, si trova un ventaglio di possibilità che si potrebbe veramente fare 100 sfumature di grigio. Certo, cioè, ci sono effettivamente anche sul Sole 24 Ore, nelle ultime settimane avete parlato di previsioni, l'una che diceva il contrario quasi sì, dell'altra. Sì, e tutti portano un sacco di argomentazioni a favore della propria ipotesi. E non era mai successo. Era da tempo che non si vedeva un ventaglio così ampio. E ad ottobre poi c'è un altro avvenimento importantissimo, l'addio di Draghi. Quello è un altro evento importantissimo, perché la Banca Centrale Europea ha fatto, in Europa ha sostenuto molto questo abbozzo di ripresa economica che c'è stata, e adesso la Banca Centrale finisce a dicembre, finisce quindi con gennaio, finisce la sua iniezione di liquidità, ma mantiene una politica monetaria espansiva, quindi a favore della crescita economica. Draghi è stato il fautore di questa politica, è stato non soltanto il presidente ma anche l'ideatore, quello che ha spinto molto, ha creato consenso all'interno della Banca Centrale Europea. Vediamo chi succederà a Mario Draghi, perché a seconda di chi può essere presidente può cambiare gli equilibri all'interno della Banca Centrale. Ed essere una Banca Centrale adesso che ritira troppo velocemente gli stimoli monetari in un momento in cui l'economia, come dicevamo, è incerta, ma sicuramente l'anno prossimo rallenterà rispetto a quest'anno, perché così indicano i segnali adesso, potrebbe essere 2019, un altro elemento appunto di incertezza. Grazie a Moria Longo per essere stato. Buon anno. Buon anno a tutti. Enrico, un anno nuovo significa anche un nuovo colore che colorerà le giornate di tutti, e lo abbiamo scoperto grazie ad una collega che è qui con noi. Ogni anno c'è un colore diverso, Pantone. Io non lo sapevo. E io infatti quest'anno L'ho scoperto e la ringrazio, perché la nostra Maria Luisa Pezzali ce lo ha spiegato. Ciao. Ciao Anna Rita, ciao Enrico. Ciao. Allora, diciamo, ricordiamo, Pantone è l'azienda per antonomasia dei colori. Sì, è la multinazionale del colore, fornisce gli standard a tutto il mondo del design. È famosa ad esempio per i pennarelli che usano gli architetti, che usano i designer, appunto gli artisti. In cartoleria il Pantone numero è uno standard appunto unico. Azienda americana. Azienda americana. E che cosa fa ogni anno? Allora, ogni anno attraverso un istituto apposito, ogni anno da 20 anni, questo istituto apposito si chiama proprio il Pantone Color Institute, decide, dopo un'analisi che dura mesi, 9 mesi, in cui gli esperti passano in rassegna tutto il mondo dell'arte, del design, della moda, tutti gli spunti che possono arrivare dal cinema, dai social network, eccetera, arrivano una rosa di colori, tecnicamente in gergo si chiama palette, fino a che ai primi di dicembre c'è il grande annuncio, un annuncio molto atteso, molto carico di enfasi, è attesissimo da tutto il mondo del design, della moda, da chiunque si occupi di consumi. Annunciano appunto il colore dell'anno, che nel 2019 è? Rullo di tamburi, è il Living Coral, è un rosa rosso corallo un po' retro, si è visto molto negli anni 80, non so voi, ma io avevo una felpa di questo colore. Ma sono colore. Colori nuovi? Cioè questo è un colore nuovo o un colore che esisteva già? No, è un colore che esiste, però insomma anche nei colori ci sono i corsi e i ricorsi, quindi sono colori che magari si modificano un po' nelle nuance, nelle sfumature, e che appunto poi dettano legge, diventano colori di tendenza. Questo corallo sarà, diciamo, il colore dell'anno come abbigliamento, come, sì, come tutto? Lo troveremo ovunque, lo troveremo nei capi di molte collezioni primavera-estate, infatti in passerella si sono già viste, perché poi gli stimoli arrivano anche da lì, lo abbiamo già visto nelle collezioni appunto che ci saranno nei negozi nei prossimi mesi di Marc Jacobs, di Burberry, di Chanel, e poi ad esempio uno dei colori del nuovo iPhone X, pagliarini. Quindi l'Apple ha preceduto la Pantone, oppure forse sì, la sapevano già. Perché è un gioco di rimandi, sì. No? Loro guardano, interpretano, quindi in certi prodotti di avanguardia, come dire, c'è già, ispirano questo istituto, e poi nel largo consumo arriva. Luisa, grazie, perché innanzitutto ci hai dato questa lezione, noi non lo sapevamo, adesso abbiamo informato i nostri ascoltatori. Allora invitiamo tutte le donne e anche gli uomini all'ascolto di andare a cercare magari nell'armadio quel capo di abbigliamento su questo Living Coral. Io non la rimetto perché non mi stava appunto da bionda benissimo, però il consiglio ad esempio per i saldi, se dovete comprarvi qualcosa, questo colore vi piace, vi sta bene, andate sul sicuro perché sarà il colore di tendenza di tutto il 2019. Living Coral. Esatto. Molto corallo vivo, una roba del genere. Sì, perché poi c'è anche un messaggio un po' politico, come sempre, che è ambientalista in questo senso. E poi la Pantone lo spiega, quindi un richiamo alla tutela dei mari, alla tutela della barriera corallina. Quindi, insomma, diciamo anche una coerenza di sostanza, di contenuto. Grazie, grazie a Maria Luisa Pezzali. Enrico, adesso ti porto in un posto molto molto bello che non so se tu hai visitato. Io ho origini lucane e quindi devo dire che sono particolarmente orgogliosa. Fortunatamente sì, anche perché l'ho visitata tanti tanti anni fa e probabilmente un visitatore che andasse oggi a Matera non la riconoscerebbe più rispetto Matera, a tanti la anni nostra fa. Capitale europea della cultura 2019, di questo vogliamo parlare. La musica che sentite è quella dello spot, che è molto bello. Ci sono due turisti, una coppia, che cammina nei sassi, nelle strade straordinarie di Matera, e la cosa che mi ha colpito di più è l'accoglienza delle persone, che questo video fa capire molto bene, cioè l'accoglienza molto bella delle persone. Da Matera partiranno tantissime iniziative. Già ieri abbiamo trascorso sulle retirai il capodanno proprio a Matera. Il 19 gennaio però parte tutto, ce lo facciamo raccontare e lo ringraziamo dal direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri. Salve. Buongiorno a voi, intanto a tutti buon anno e ben entrati in questo meraviglioso 2019. Meraviglioso davvero, parte tutto il 19 gennaio? Assolutamente sì, abbiamo 2019 musicisti che si stanno muovendo da tutta Europa, dai 27 altri stati d'Europa ci stanno per raggiungere, il 17 saranno già qui in Basilicata, dormiranno a casa di tantissimi cittadini lucani che si sono dati disponibili per ospitarli, e poi il 19 mattina inaugureranno questi 3 ettari di casa di Cava del Sole, uno spazio che abbiamo restaurato per l'occasione, che ospiterà proprio l'avvio della cerimonia inaugurale, che durerà oltre 14 ore, dalle 10 del mattino fino oltre la mezzanotte. Al di là degli spettacoli, immagino che trovare un posto o un biglietto per questi spettacoli sarà sempre più complicato, perché gli spazi non sono immensi, ma se uno viene nei prossimi mesi, se uno verrà a Matera nei prossimi mesi, che cosa trova? Cioè potrà visitare tranquillamente la città? Ci sono anche posti per dormire o sarà difficile? No, assolutamente. Intanto voglio dare due dati. Questo passaporto che abbiamo programmato consente di entrare a basso costo a tutto. Diversamente dalle capitali europee della cultura che si sono succedute negli ultimi anni, con 19 euro se si è italiani o stranieri, addirittura con 12 euro se si è cittadini lucani, si può frequentare tutto quello che proponiamo. Ogni giorno ci sono oltre 5 attività che si possono fare in contemporanea, quindi si può fare davvero tantissime cose. E la tessera si acquista online, si acquista sul posto? La tessera si acquista online, ma poi si ritira il passaporto sul posto, perché vogliamo sempre che ci sia una fisicità. Amiamo il digitale, ma amiamo ancora di più il contatto tra le persone. Quindi si può andare sul nostro sito www.matera-basilicata2019.it e trovare già il passaporto da comprare e da scaricare, però poi quando si è arriva in città, si arriva ai nostri info point e viene dato un passaporto e degli occhiali speciali con cui guardare la città in omaggio, che sono il nostro gadget per tutti quelli che verranno. Oltre a questo abbiamo creato 5 percorsi nuovi, quindi non solo i sassi, ma faremo visitare proprio la città che è stata costruita fra gli anni 50 e 60 da grandi architetti contemporanei. Visiteremo, si potrà visitare per esempio anche il Borgo della Martella voluto da Adriano Olivetti come esempio veramente di un'utopia che poi è stata insomma un po' sfatata dai fatti, ma che è molto interessante vedere. Tutte le settimane avremo uno degli 80 film che sono stati girati in Basilicata, sarà possibile rivederlo qui nel cinema di Matera, e soprattutto ci saranno tantissime attività di discussione, dialogo, formazione. Abbiamo questo percorso proprio di incontro con i cittadini materani, per cui stiamo proprio facendo dei momenti di formazione per tutti. Vogliamo che chi viene non solo porti via qualcosa, la bellezza della città e la qualità dei contenuti culturali, ma anche che lasci qualcosa. Infatti ciascuno dovrà portare un libro e alla fine avremo una delle più grandi biblioteche pubbliche mai costruite, perché ci aspettiamo di avere circa 300.000 libri da lasciare in dotazione alla città per gli anni a venire. Grazie al direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri. Obbligo di visitare Matera quest'anno e non solo. Grazie direttore. Grazie a voi, ancora auguri. Bellissima canzone di Malika Ayane per introdurre l'ultimo argomento, Enrico, per finire in bellezza con i mondiali di calcio femminile, mondiali 2019 che si giocheranno in Francia e nei quali, Enrico, ci sarà anche l'Italia. Pensavo ci fosse anche Malika Ayane. Dario Ricci, ciao, benvenuto. Ci siamo andati vicini perché è stata una delle cantanti che ha sostenuto la causa della nazionale, esatto, femminile. Questo è un anno dispari e di solito negli anni dispari non ci sono né olimpiadi né mondiali, quelli di calcio i più famosi. Li abbiamo appena visti in TV perché ahimè non ci siamo andati. Per questo ci siamo così, tra i vari motivi, affezionati così tanto alle ragazze del calcio, perché esatto, è l'unica nazionale, insieme all'Under 21, perché ospiteremo sempre a giugno anche gli europei Under 21 maschili, li ospiteremo proprio in Italia, però una nazionale che va ai mondiali di calcio è quella femminile. Quindi, ecco, dove saranno, quando saranno, come funzionano? Funzioneranno immagino come quelli maschili. Sì, dal 7 giugno al 7 luglio, fase finale in Francia. L'Italia è stata sorteggiata in un girone piuttosto complicato, Australia, Brasile e Giamaica, del resto eravamo in terza fascia perché era da 20 anni che non partecipavamo ai mondiali femminili, ma siamo un po' tra le possibili outsider, anche perché, come avrete notato, il movimento del calcio in rosa sta avendo una nuova primavera, non a caso ad esempio il campionato di Serie A è trasmesso da Sky, le maggiori squadre maschili, Juventus, Inter, Milan, hanno sviluppato e stanno sviluppando le sezioni femminili, quindi c'è una certa crescita. Perché? Perché comunque è il settore dove ci si può espandere in modo, tra virgolette, più facile, perché c'è interesse e quindi si può anche aumentare con relativa facilità il numero delle tesserate, no? Quindi anche l'interesse della federazione. Saremo in campo il 9 giugno con l'Australia a Valenciennes, poi il 14 giugno a Reims con la Giamaica e poi il 18 giugno di nuovo a Valenciennes con il Brasile. Senti, i rapporti di forza nel calcio femminile sono più o meno gli stessi del calcio maschile, cioè i sudamericani sono fortissimi oppure cambia tutto? Diciamo che il GOTA è rappresentato dalle statunitensi, perché il calcio, il soccer è uno degli sport per eccellenza a livello universitario, perché serve appunto per far squadra, per formarsi, è considerato come poi base per quelli che sono poi gli sport americani veri e propri, quindi statunitensi e paesi scandinavi in testa, Norvegia, Svezia, quindi Danimarca. Quasi nulla che fare col calcio maschile. A parte il caso del Brasile, perché le brasiliane sono molto forti anche a livello femminile, quindi in quel caso diciamo la scuola della strada, della favela funziona in tutti i casi. Scusa, se dico una cosa proprio da maschietto, cioè sarà un piacere vedere le brasiliane che giocano anche bene. Immagino siano delle belle donne e giocano bene. Sì, ma queste picchiano pure, cioè, nel senso che sono ragazze. Queste sono atlete. Sono professioniste, vanno al risultato. E io eviterei comunque un tackle da parte di un mediano brasiliano, ecco, di una mediana brasiliana. Io sono molto contenta che abbiamo chiuso con questo tema, perché spero che ci siano degli ascolti importanti per le partite delle azzurre. Speriamo anche di poterli seguire, chissà, magari anche dal vivo, noi ogni tanto ci lanciamo. Speriamo che vincano anche. Speriamo che vincano. Tre sicure le giocano. Okay. Quindi. Grazie Dario, buon anno. Grazie anche a te. Grazie a voi, auguri. Enrico, siamo ai saluti, però io prima di salutarti devo farti la domanda, ma insomma, ma tecnologicamente... Ah, ci saranno 2019. Un sacco di cose, però vorrei citarne una che riguarda la radio, perché questo 2019 finalmente sarà l'anno in cui, a partire da luglio, quindi ci vuole ancora qualche mese, tutti coloro che distribuiscono o radio, quindi parliamo di elettronica di consumo, o anche automobili, perché in tutte le automobili c'è un autoradio, saranno obbligati ad acquistare dai produttori solo radio che ricevono anche i segnali della radio digitale DAB. L'obbligo per venderli sarà al 1 gennaio del 2020, però già da quest'anno cominceranno a diffondersi obbligatoriamente, quindi quando verso la fine dell'anno, dal prossimo anno, compreremo o un'automobile con una radio o qualsiasi altro ricevitore, sarà sicuramente anche digitale. Poi l'FM continua a funzionare per molti anni ancora. Ascolterete sempre meglio la voce di Radio 24, sulla quale vi invitiamo sempre a restare. Vi auguriamo un anno meraviglioso su Radio 24 con tutti i racconti che faremo. Esattamente, da Anna Rita D'Ambrosio ed Enrico Pagliarini. Buon anno.